peggiori. Comparati ai sistemi educativi del padre, e quelli della madre appaiono assai diversi. Parliamo attualmente della madre di Charles. C'è una presentazione, avete visto nel secondo nostro capitoletto, una presentazione dei genitori, e l'altra volta abbiamo visto che tipo è lui, un millantatore, una persona abituata alla bella vita, che spreca il suo patrimonio, che finisce nella rabbia, nell'odio per tutti, e si ritira in solitudine. E quanto a lei, c'è già una splendida premonizione di quel che sarà la vita coniugale, perché lei comincia bene nel suo matrimonio, è piena d'amore per il marito, lei, la madre di Charles. Era, come si dice, pazza di lui, era pazza di lui. Questo delle donne che sono pazze d'amore è un tema che ritroveremo appunto nella Bovary. Emma sarà una pazza di, folle di. E soltanto che con il tempo la freddezza, più che la freddezza, la rudezza del marito l'aveva allontanata. Ci sono delle coppie che cominciano in questo modo, con uno che ama più l'altro di quanto si è amato, e poi pian piano si staccano, poi si stufano, perché l'amore è una stranissima cosa che ha bisogno di corresponsione. Salvo un caso aberrante, un caso folle che ha poco a vedere con la logica amorosa come noi la intendiamo, che è quello del rapporto genitori-figli. Allora i figli normalmente nel corso delle cose della vita, insomma, prendono a calci in faccia i genitori, e non di meno i genitori continuano ad amarli. Questo naturalmente, come dire, di tendenza. Esistono anche genitori che odiano i figli, ma si tratta davvero di una percentuale molto trascurabile, e soprattutto è il problema fondamentale che nell'amore genitori figli non si chiede una corresponsione. Il figlio ritiene come scontato l'amore del genitore, e il genitore ritiene che il figlio destini a lui il peggio di sé. Avrete sentito voi anche nelle vostre esperienze familiari che magari vostra madre, vostro padre vi ha detto: tu dai il meglio di te fuori casa, con noi sei sgarbata come con nessuno, con noi sei insopportabile come con nessuno. Sono assolutamente certo di leggere nelle vostre espressioni la conferma di quanto sto dicendo. Padre e madre molto diversi, guardiamo il terzo capitoletto. Il terzo capitoletto inizia con il capoverso, alla pagina a fianco, Quand elle eut un enfant. L'avete trovato? Sì. Due righe dopo cominciamo il nostro capitolo. No, cominciamo anche di qua e intitoleremo questo capitoletto Allevano Charles. Traduco. Come sempre, chi avesse una traduzione italiana è pregato di alzare gli occhi, altrimenti si confonde, e di seguire semplicemente quello che dico. Ma naturalmente quello che io vorrei è che voi aveste, mi auguro, il testo francese, e seguiste quindi sul testo francese la traduzione che vi faccio. Quando ebbe un bambino, lei, la madre, bisognò darlo a paglia. Rientrato a casa sua, il marmocchio venne viziato come un principe. La madre lo nutriva con marmellate. Il papà lo lasciava correre senza scarpe, e per fare il filosofo diceva anzi che poteva andarsene nudo completamente, come i piccoli delle bestie. Contro le tendenze materne aveva in testa un certo ideale virile dell'infanzia, secondo la quale cercava di formare suo figlio e voleva volendo che lo si allevasse duramente alla spartana per dargli una buona costituzione fisica. Lo mandava a dormire senza riscaldamento, gli insegnava a bere grandi sorsi di rum e a insultare le processioni. Ma naturalmente di indole tranquilla, il piccolo rispondeva male ai suoi sforzi. La madre lo portava sempre con sé, gli tagliava le figurine, gli raccontava storie e si intratteneva con lui in monologhi senza fine, pieni di allegria melanconica e di leziosità, una buona traduzione da proporre, di leziosità chiacchierine, una bella traduzione questa. Nella solitudine della sua vita la madre riportò su quella testa di bimbo tutte le sue vanità sparse, spezzate. Sognava alte posizioni, lo vedeva già grande, bello, spirituale, sistemato come ingegnere civile o nella magistratura. Gli insegnò a leggere e gli insegnò anche su un vecchio piano che aveva a cantare due o tre piccole romanze. Ma di fronte a tutto ciò, Monsieur Bovary, poco attento al mondo delle lettere, diceva che non valeva la pena. Avrebbero mai avuto il denaro per poterlo mantenere nelle scuole del governo? Comprargli una carica o un'azienda? D'altronde, con la faccia di bronzo, un uomo con una faccia tosta, un uomo riesce sempre nel mondo. Madame Bovary si mordeva le labbra e il bambino vagabondava nel villaggio. Seguiva i contadini e cacciava a colpi di zolle di terra i corvi che volavano via. Mangiava more lungo i fossi, teneva a bada i tacchini con una bacchetta, rivoltava il fieno, correva nei boschi, giocava alla marelle sotto il portico della chiesa, i giorni di pioggia e nelle feste importanti supplicava il sacrestano di lasciargli suonare le campane per appendersi con tutto il corpo alla grossa corda e sentirsi trascinato via dal suo slancio. Commentiamo questo meraviglioso capitolo. Ecco, direi questa è un po' una caratteristica che rende Flaubert particolarmente adatto a un commento, alla lettura, perché non di tanti grandi scrittori potrebbero trovare pagine belle da commentare. Per esempio, leggendo romanzi di Balzac o di Stendhal, la bellezza non è nelle singole pagine, quasi mai, è semmai in certi dettagli. Ma Flaubert ha una cura particolare invece per quella che potremmo chiamare bella pagina, bel periodo, per cui insomma a colui che legge Flaubert, che lo spiega, che ha la fortuna di leggerlo e di spiegarlo, il compito riesce più facile. Due genitori molto diversi che agiscono completamente all'opposto con il bambino. Uno, il papà, educandolo a una vita spartana, virile, e la mamma, al contrario, riempiendolo di confetture. È la miglior strada per far diventare il figlio in certe condizioni omosessuale, insomma. O comunque è certo, perché a questo punto il figlio si rivolge nelle sue attenzioni, ci sono dei casi illustri nella letteratura di questo esito, di questa sorte. Io so pensare allo scrittore Pierpaolo Pasolini, con il padre che aveva un assetto psicologico anche un po' militaresco, e la madre che appunto lo ricolmava di come dice lì, di chatterie babillard, di leziosità chiacchierine, insomma. Allora il bambino si rivolge alla mamma, da cui si sente protetto. Da un padre del genere non ci si sente protetto. Fate caso che comincia qui a notarsi la solita tecnica flaubertiana, quella della, attenzione bene, una cosa molto importante, quella dell'accumulazione. In che cosa consiste? Ve l'ho accennato e ci torneremo su più volte. Flaubert ha questa idea che un personaggio bisogna costruirlo con progressive couche de couleur, con progressive colpi di tinta, no? I personaggi non debbono essere, siamo nella Bovary, attenzione, perché dopo le cose cambiano, ma in questa fase iniziale del suo realismo i personaggi vengono costruiti secondo un po' i moduli che forse alcuni di voi conoscono della commedia dell'arte. Nella commedia dell'arte noi abbiamo dei personaggi che tutti conoscete, quantomeno di nome: Arlecchino, Brighella, Pulcinella, il dottor Balanzone. Ognuno fa una sua parte, no? Il dottor Balanzone è quello saccente, Arlecchino servo di due padroni, insomma, è un zuzzurellone. Poi Pulcinella è uno napoletano, bugiardo, no, si dice anche nell'uso comune, no? I segreti di Pulcinella, è uno poco fededegno, no? E vedi questo passo. Quando il lettore entra in un libro di Flaubert e vede che un certo personaggio è, vediamo, rosso e l'altro è verde e l'altro è viola, deve attendersi il fatto che il personaggio sarà sempre più rosso e quello verde, sempre più verde e quello viola, sempre più viola. Questo è il punto sostanziale. Non dobbiamo attenderci, come nel romanzo moderno, che il personaggio si sfumi. I personaggi della Bovary non sono sfumati. Vi ho parlato della Bovary perché nell'Educazione sentimentale, l'altro grande romanzo dopo, la situazione è lievemente diversa e per esempio il protagonista non è facilissimo da definire. Qui invece i personaggi sono con questi idea: quello che è rosso diventa più rosso, eccetera. Qual è la reazione che si produce nel lettore? È una reazione di contentezza, di gioia. Attenzione: quando noi abbiamo un rapporto con una persona, no? Un rapporto umano con una persona, può essere un amico o può essere un amante, noi ci aspettiamo che la persona agisca in un certo modo. Ogni volta che la persona agisce in quel modo che noi già conosciamo, dice quella battuta, ha uno spirito di un certo genere, noi abbiamo come un soprassalto di gioia, perché diciamo, ah sì sì, così deve comportarsi, lo conosco bene. Questa conoscenza preliminare ci dà una vampa affettiva. Nell'amore questa conoscenza preliminare è essenziale. Che cosa conosciamo nell'amore? Che cosa conosciamo? Piccoli, minuti, gesti, tic, inflessioni di voce, un certo modo per un uomo di vedere la propria donna che si ravvia i capelli in una certa maniera, se li aggiusta, se li acconcia in un certo modo. E noi ogni volta, questo è proprio un fastidio, non si fa mica. Diversamente, stando da un'altra parte, ma a volte fa così, vediamo un po'. Questa conoscenza ti dà un senso di gioia, così l'amico. Se la persona, amico o amante che sia, cambiasse il suo modo di comportarsi con noi repentinamente, ci rimarremmo male, saremmo smarriti, costernati. Quello che si teme in un rapporto affettivo, ho scritto tanto tempo fa, è una sorta di infarto della comunicazione. Sapete cos'è un infarto, grosso modo? Quando il sangue non scorre più, quando improvvisamente si blocca il canale di comunicazione con l'amico, sicuramente con amici che avete avuto, e poi a un certo punto l'amicizia si è rotta, avete avvertito che a un certo momento c'era come un blocco, non si riusciva più a esprimersi. Veniamo adesso qui alla pagina che diciamo. Il padre di Charles è uno che lo educa nel segno di Sparta, nel segno di è un'educazione virile, no? Una volta che il maschio dovesse essere educato in modo virile, era un fatto fondamentale. I maschi che non facevano, per esempio, il servizio militare, venivano, adesso il servizio militare non c'è più, vanno soltanto per le volontà, era un fatto fondamentale. C'era un rozzo proverbio delle mie parti al nord, orrendo, che diceva: chi non è buono per il re non è buono per la regina. Cioè, se tu vuoi far l'amore devi sapere combattere. Di queste idiozie si è intessuta la cultura dell'italietta che ci siamo portati avanti per gran parte del ventesimo secolo. La femmina cosa deve essere? Deve essere tutta focolare, chiesa, preparazione dei corredi, modestia nel tratto e queste altre mielate orrendezze. Il maschio deve mantenere con i suoi muscoli il peso della famiglia, no? Io mi ricordo che quando da bambino proponevo qualche volta a mia zia che ci allevava di aiutarla in cucina, lei rifiutava con sdegno. Eravamo tre maschi, perché diceva che queste erano cose da bambina, non erano assolutamente ammessi per un maschio. Un maschio deve fare altre cose. Noi portavamo infatti, per esempio, in campagna dei secchi giganteschi alla fonte di acqua che era accessibile su un lungo pendio in salita, una cosa che sarebbe piaciuta al padre di Charles. Secchi, altro che plastica, secchi pesantissimi pieni di acqua. Queste erano le cose a cui un maschio doveva essere educato. Il maschio non doveva mai piangere. Questo è il tipo di educazione. Una volta che io caddi in bicicletta, mi ricordo con mio padre, disse: mi raccomando, disse lui, vecchia educazione del nord, di una famiglia nobile, non devi dire nulla. Io mezzo rovinato, abrasioni, sangue, non dire nulla a tua madre che sennò si spaventa. E vaffa all'uomo, ma come non dire nulla a tua madre? E poi le deformazioni della psiche vengono fuori da queste barbare forme di educazione. Io tornai a casa e mia mamma mi chiese: ma che cosa è capitato? E io, niente, una macchina, mi ha toccato, come ti ha toccato la macchina? Sì, sì, mi ha buttato per terra 10 metri. Ma come? Mi ha buttato 10 metri per terra, ma poverino, no, ma no, per carità. E così nasce, e poi in fondo, quello che potremmo chiamare l'espressione icastica, e icastica un po' rude, insomma, il mito delle palle, no? Che si trasferisce anche alla donna, la quale naturalmente non è depositario per sua natura dei testicoli, ma le vengono attribuiti dei testicoli spirituali quando si dice: devi avere le palle. E perché? Perché tutta la vita poi devono avere coraggio, ha seguito il concetto. Quindi le palle dell'uomo diventano palle, che l'uomo deve ben viversi, e guai se non le vive. è un impotente, eccetera, eccetera. Ma anche la donna deve avere delle palle, per così dire, spirituali. Infatti la madre dice alla figlia: ma come fai questo esame da studio? No, non mi sento di studiare. Mostra le palle. Questo è quello che la madre tutto di. La madre dava marmellate al figlio. La madre dava marmellate. Il padre lo abituava invece, aspettate che ho perso il segno, il padre lo abituava ad andare a dormire senza fuoco, senza il fuoco acceso, a bere, pensate, proprio bambino, dei sorsi di rum. Ma come si fa un bambino di 6 anni a dargli dei sorsi di rum, no? Tra l'altro la cosa è tutt'altro che inverosimile, perché in campagna dalle mie parti, ai miei tempi, che non sono esattamente quelli di Flaubert, questo volevo dirlo per evitare qualunque sono, no, perché vedevo delle facce che mi ritenevano coevo di Lobby Flow, non è così, non è un altro, chiaro il concetto, davano in campagna i bambini a 6-7 anni, prima di andare a scuola, un bicchiere di vino Barolo piemontese, 14 gradi. La mattina, anziché il latte, un bicchiere di vino, perché così si sentivano, puoi immaginare un bambino di 6 anni che andava con un bicchiere di Barolo in corpo a lezione, insomma, anziché le aste che si facevano per fare le lezioni, chissà cosa faceva. A questo punto doveva, siccome il padre era un mangiapreti, doveva insultare le processioni. Poi sentite in questo crescendo comico, nettamente comico, umoristico, del povero bambino che era tranquillo, mite, così eccetera, che doveva però andare quando passava il prete con la processione, ah porco! E quindi doveva dire delle bestemmie, capito? E tutto questo il bambino, la bestemmia è una libera scelta, ma se uno ti dice bestemmia, diventa più difficile effettivamente, no? Vedono il bambino che impreca o bestemmia contro i sacerdoti, la mamma invece gli faceva le figurine e poi parlava. Ma guardate cosa dice Flaubert, dice che questo discorso che faceva con il figlio non era un discorso a doppio senso, cioè lei parlava, il figlio gli poteva, che doveva rispondere a un bambino? No, come avvengono i discorsi tra mamma e bimbo? È la mamma che parla, è il bimbo che ascolta, quindi erano lunghi monologhi. E qui dice meravigliosamente Flaubert di gaiezza malinconica, gaiezza perché sta parlando con il suo bambino, malinconica perché il suo matrimonio fa schifo. Spesso notiamo nei colloqui delle madri con i figli proprio questo atteggiamento, perché il matrimonio fa, come sapete, per legge, direi per legge dello Stato, fa schifo. E invece quando sono bambini, i bambini rappresentano, no? Quanti amici ho incontrato, come va con il tuo marito? E la risposta era, ma con i miei figli va molto bene, già mi ha fatto rispondere in questo modo, e con tuo marito i rapporti sono dialettici, ecco, queste cose. E la mamma sogna, tutte le mamme sognano. E che cosa vogliono? Il figlio che sia grande, bello, e ovviamente mica brutto, ingegnere, perché ingegneri sono importanti, fanno ponti, no? Un ingegnere che non faccia un ponte, che ingegnere è? Cosa fa un ingegnere? La prima cosa che fa un ingegnere appena laureato, immediatamente il giorno dopo, subito si dà da fare, anche se un ingegnere elettronico, si dà da fare per fare un ponte, dove che sia, dove lo faccio il ponte? Non lo so, lo faccio anche alla Romanina, comunque parte, dove posso faccio un ponte? Alla Nannina, capisci? Vedi uno che costruisce, ma cos'è? Sono laureato in ingegneria da ieri, che cazzo stai facendo? Sto facendo un ponte, sognava quindi che fosse un ingegnere o un magistrato, cioè figure alte, figure di potere. Il padre invece pensava, e in questo senso era lungimirante, tutto questo non conta un tubo, quello che conta è avere la faccia tosta. società. Guardate che se non era in questo senso un precursore di Berlusconi, quello che conta è avere la faccia tosta. Con la faccia tosta vai dappertutto, vai dappertutto, no? Ecco, come poteva crescere il bambino tra il padre che lo educava alla spartana, senza fuoco, bestemmiando, sorsi di rum, portò poveretto, ogni mattina un sorso di rum, alla fine evidentemente non ne poteva più, basta, non ne posso più, rum, rum, rum, capite, no? E dall'altra parte la madre, marmellata, papà, marmellata, rum, marmellata, è piccolino, mi sai il livello di glicemia di quello che poteva arrivare. Entra rum, marmellata, il povero bambino che non era un granché dal punto di vista intellettuale, cosa poteva diventare? Sfogava una sua ira, andando a caccia con i cerchi, a caccia si fa per dire, prendeva delle zolle di terra e le buttava contro i corvi che volavano via. La semplicità di tutto questo, no? I corvi che venivano mandati via dalle zolle di terra, ma c'è un punto meraviglioso. Chiedeva al sacrestano, voi sapete che nei paesi si suonano le campane, eh? Certo. Nel mio paese si suonano le campane, allora, alla mezz'ora, al quarto d'ora, e ogni volta uno si pappava tutta l'ora prima, per cui, non so, alle 11:15 ti beccavi 11:03, poi mezzanotte erano 12, insomma, sempre una cultura abbastanza consistente, poi uno si abitua. Ma perché gli piace suonare le campane? Perché questo bambino così privo di gioia, pensa sempre a questa cosa qua, da una parte la marmellata e dall'altra parte il rum, capito? Rum marmellata, vi sto naturalmente enfatizzando le cose, facendo esattamente quello che avremmo voluto Flaubert come lettore, perché sta costruendo i personaggi per accumulazione, no? Questo qui dice, ma voglio volare, e attaccata alle corde della campanone, è un gioco che avrete fatto forse qualche volta, se vi sarà accaduto in circostanze analoghe, volava nello slancio della corda. Terzo capitoletto, educazione di Charles. Subito dopo. Quarto capitoletto, quindi sarà tutto sbagliato con il popolo. Beh, molto bene. Educazione di Charles, l'altro Charles, educazione di Charles. Questo è il capitoletto che comincia con a Toussaint, a 12 anni. Avete capito che la ragione per cui non lo mandano a scuola, allora le scuole non erano obbligatorie, perché non aveva i soldi, capito? Non aveva i soldi. A 12 anni sua madre ottenne che cominciasse i suoi studi, un po' tardino. E ci si incaricò di questo il curato. Ma le lezioni, sentite questa meraviglia, erano così corte e si malsui e spezzate, cioè non erano in una continuità fra di loro, che non potevano servire a granché. Era nei momenti persi, era tempo perduto, era nei momenti di buco, di vuoto, no? Che venivano date in sacrestia, in piedi, in fretta, fra un battesimo e una sepoltura. Oppure il curato mandava a chiamare il suo allievo dopo l'Angelus, quando non doveva uscire. Si saliva allora nella sua camera dove ci si sistemava. I moscerini e le falene giravano intorno alla candela. Faceva caldo, il bambino s'addormentava e il brav'uomo, assopendosi con le mani sul ventre, non tardava a russare la bocca aperta. L'educazione che può ottenere è quella del curato. che cosa può insegnare un curato? I preti hanno avuto naturalmente una grande responsabilità nell'educazione ai minimi livelli. Cosa gli avrà insegnato? Forse qualche parola di latino? Forse qualcosa di geografia? Comunque, certamente quel poco che gli insegnava glielo poteva insegnare soltanto quando non aveva i suoi uffici religiosi. E adesso guardate che sferzata di bellezza qua. Il tutto avviene, queste lezioni avvengono nella camera del prete. Quando leggete, un segreto è quello di fermarvi quando sono, lo dico sempre, lo ripeto sempre da tanto tempo, quando c'è qualcosa di bello, fermatevi e immedesimatevi. Ma più riuscite a fermarvi e immedesimarvi, è meglio è. Allora, chi di voi ha avuto delle pratiche di camere di preti, perché c'è stato incidentalmente, chi è qualcuno di voi che ha avuto, che è stato, adesso l'educazione non sono quasi più cattoliche, ma c'è qualcuno che ha avuto pratiche, vorrei sapere, di camere di preti? Nessuno di voi? No. Una volta in Italia, in Francia anche adesso, ci si lavava poco. Fino a poco tempo fa in Inghilterra, ma credo ancora adesso, il bidet era considerato uno strumento di peccato. Noi abbiamo avuto, potrei raccontarvi molte cose, insomma, delle pratiche indegne dal punto di vista igienico, che però, essendo vicini all'ora di pranzo, c'erano delle signore a Napoli che si fermavano con delle grandi gonne per la strada e facevano i loro bisogni. Dopodiché c'era un asciugamano, cosiddetto, una coperta che veniva usata per nettarle, che si chiamava il leopardo, e così, e non dico altro, se vuole glielo spiego, ma Luigi XIV non sapeva nemmeno cosa fosse, si mettevano profumi, ma pensate che cosa dovevano essere gli incontri amorosi, cioè erano, bisognava entrare in un'altra ottica, del selvatico. Il selvatico è la mia legge, e quindi a questo punto qui si sentiva, tutto doveva essere terribile, spaventoso. I preti si lavavano poco. Le camere dei preti erano, questo che è il fatto del sale, avevano quell'odore di non lavato, di freddo e di non lavato. Ecco, userei due concetti che è caratteristico. Se adesso, a distanza di tanti anni, mi facessero sentire questo freddo lezzo, io riuscirei a dire istantaneamente: ecco qua, qui c'è un prete, qui c'è un prete. Le tonache dei preti non c'erano mica, le tonache dei preti coprivano delle biancherie che venivano cambiate non seguendo né ritmi quotidiani né ebdomadari, ma mensili. Cose terrificanti. Dovete sentire questi odori, chi ha memorie ed estensioni di esperienze, per immaginare che cosa succedeva. In questa camera venivano fatte le lezioni. Su che cosa? Ve l'ho detto. Guardate questo passaggio. C'erano dei moscerini, moucherons, e c'erano delle falene, d'accordo? I moscerini e le falene giravano intorno alla candela. Ora, fino a questo momento, l'autore non ci ha detto nulla della stagione in cui siamo. E tenete conto che le stagioni sono fondamentali per Flaubert. In genere sono molto importanti per tutto il romanzo europeo dell'Ottocento. Le stagioni sono importantissime, in Tolstoi, in Dostoevsky, danno hanno due effetti queste azioni. Primo, ti fanno sentire in modo più verisimile la scena che si sta descrivendo, ti riescono a far collocare la scena. Come più volte mi è accaduto di dire, la nostra vita è segnata dalle stagioni. Fate caso, l'ho detto molte volte, ma ripetita Juvent, uno non muore genericamente nell'anno, no? Ma muore in una stagione, è morto d'estate, di primavera. Non è che uno si innamora senza tempo, no, no, si innamora d'autunno. Si innamora d'autunno, i grandi episodi della vita, incidenti, nascite, sono legati alle stagioni. Però qui, a questo momento, parlando di Moscerini e di Falene, Flaubert non ha ancora detto nulla sulle stagioni. E perché non ha ancora detto nulla? Su quale stagione siamo? Perché? Perché evidentemente le lezioni duravano durante l'anno. Quindi la cosa poteva valere per l'inverno, eccetera, eccetera. Se non che, avendo parlato di Moscerini e Falene, presupponiamo che la finestra fosse aperta, e quindi siamo in Normandia, non è che poteva essere aperta in inverno, prima, ma in una stagione calda. Secondo, le falene fanno pensare non solo che non siamo nella stagione fredda, ma siamo nella stagione calda, siamo d'estate. E infatti la frase successiva è questa: faceva caldo. Allora guardate come quella indicazione stagionale, faceva caldo, viene, emerge per così dire, emerge per metonimia direi, emerge dalla considerazione precedente che c'erano le falene. C'è una differenza notevole. Se avesse detto era d'estate, sarebbe stato meno efficace. Invece introdurre il concetto d'estate partendo dalle falene, dai moscerini, ci fa sentire plasticamente la cosa. Era interessato il buon curato a fare queste lezioni? Per nulla. Era un vecchio. I vecchi che cosa tendono a fare spesso, più degli adulti in pieno lavoro? Tendono a dormire. Perché dormono? Sul sonno dei vecchi si potrebbe scrivere, perché sono stanchi, ma dormono perché non vogliono vedersi vivere. Sapete, il sonno è un modo per non vivere. Ci sono dei vecchi che vanno a letto molto presto la sera per cercare di chiudere prima la giornata di merda in cui è diventata la loro vita. Ci sono delle persone che vanno a letto sempre prima per darsi l'idea che la giornata sia già finita. Credo che un pessimismo cosmico anime anche i giovani per stupido riflesso a Roma. Nei bar a mezzogiorno, a non dire le 11 del mattino, già trovi dei camerieri che ti dicono alle 11 del mattino buonasera. Uno li manda a qualcuno, ma come buonasera? Io mi sono svegliato adesso, ho la giornata davanti e mi dici buonasera, ma io implacabilmente dirò buongiorno finché non si accendono gli ultimi lampioni. Un vecchio tende a dormire. Le donne di un tempo stavano ferme, sedute, lo vediamo anche tra i mendicanti per la strada, dormendo. Il vecchio curato si addormenta e naturalmente russa. Il russare è qualcosa che indica esattamente lo stato di questo vecchio disinteressato, eh? E naturalmente potete immaginare il bambino quanto impara da tutto questo. Viene messo in collegio. Come vive la vita di collegio? È buono, è disciplinato, mettetevi in testa questo, Charles, è disciplinato. Manda la lettera a casa. giovedì scrivendola con inchiostro rosso, il vero coglione, no? Perché mi sembra di fare qualcosa di più fine parlando alla, scrivendo alla mamma con inchiostro rosso. Poi sta a vedere le navi che si muovono al porto. La sua giornata è tranquillissima. Un giorno viene iscritto, un giorno anzi comincia a pensare che deve andare, deve fare gli esami, ma prende l'abitudine dei cabaret, delle osterie, che naturalmente sono molto più facili come luogo di vita piuttosto che le sale di studio in cui prepararsi gli esami. Quindi viene fregato, come naturale, agli esami. Ma lui, che ha buona memoria, riprende a studiare alla fine in modo scarsamente meritato riesce a passare. Insomma, è diventato un ufficiale sanitario. Non è un dottore, badate, è un qualcosa, naturalmente non sono comparabili, in realtà un qualcosa che potrebbe paragonarsi vagamente alla nostra laurea brevis, diciamo così, molto vagamente, alla nostra laurea triennale. Può fare delle operazioni importanti solo se c'è un dottore vero vicino. Quindi non è un dottore, anche se naturalmente tutti lo chiamano dottore, così come l'università gli studenti chiamano i più piccoli tecnici laureati, ricercatori eccetera, sono professore, professore. Io sono volta allibito di vedere quanti professori sono, cioè allora io, ci sono dei ragazzini che vengono chiamati professori, chiamano anche me professore, e allora io penso, ma io sono come loro, ma no, no, non è possibile. Ma c'è qualcosa che, finiti gli studi, manca a Charlie. Ho dimenticato di dirvi che hanno trovato anche il posto in cui può esercitare gli studi li ha finiti. Che cosa manca a un giovanotto in quelle condizioni per cominciare la vita? Una cosa fondamentale: la moglie. E la madre di Charles, adesso, lo vediamo domani, si dà da fare per trovare una moglie.